Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Chiedo scusa per il leggero ritardo, stavamo completando anche alcuni aggiornamenti. È chiaro che anche oggi la giornata è tutta dedicata al, o quasi tutta dedicata alle banche. C'è stato alle banche, le quattro banche salvate dal governo, dicono le banche, no, salvate dalle banche, perché in realtà il fondo per salvare queste quattro banche, 2 miliardi e 300 milioni, lo hanno messo le banche italiane. Altra cosa è quello che è successo ai risparmiatori, per cui il salvataggio che ha permesso la continuità operativa, come si dice in gergo, cioè di non far chiudere gli sportelli di queste quattro banche, lo ha garantito il sistema bancario. Il governo è intervenuto e ha applicato parzialmente, ricordo le puntate precedenti, quello che capiterà per tutti dal 1 gennaio. Perché dico parzialmente? Perché non ha coinvolto i correntisti sopra i 100.000 euro, ha però coinvolto gli obbligazionisti subordinati, come c'è scritto nella MiFID. Cos'è sta MiFID? È l'equivalente delle spiegazioni che uno ha, il famoso bugiardino dentro le, non perché la MiFID sia un bugiardino, ma che viene chiamato così, dentro le confezioni dei farmaci, cioè spiega rischi e caratteristiche dell'investimento, è obbligatorio che venga presentata e qualunque risparmiatore deve leggerla. Io su questo non sono d'accordo con certi populismi che vedono solo i risparmiatori vittime. So che dirlo oggi con quello che è successo può sembrare indelicato, però attenzione, ci sono anche risparmiatori che vanno in banca, non la vogliono leggere, si fidano dello sportellista, si fidano del direttore perché è amico, si fidano del rendimento, beh, 3% è alto, non guardando che magari altri prodotti di altre banche rendono l'1%. Insomma, leggete questa MiFID, è obbligatorio. Detto questo, e nella MiFID era scritto che le obbligazioni subordinate, è scritto, vengono chiamate in causa in caso di fallimento della banca. Allora, che cosa è successo? È successo che dopo che il governo ha fatto quel decreto, si è accorto, tra virgolette, che ci sono 130.000 tra azionisti e obbligazionisti coinvolti. Aggiungo io, con un po' di malizia, sono 130.000 azionisti e obbligazionisti molto collocati sul territorio. C'è chi dice sui collegi elettorali, vabbè, perché? Perché Cari Chieti, Cari Ferrara, Cassa Marche, Banca Etruria erano le classiche banche del territorio su cui il mondo delle popolari si è riempito la bocca in maniera impropria molte volte in questi anni per non far fare la riforma, e va dato atto al governo che è il governo che l'ha fatta la riforma delle popolari. E dicevo, essendo molto collocati e presenti sul territorio, è altamente probabile che questi 130.000 risparmiatori siano tutti quanti concentrati in queste aree geografiche, Chieti, Ferrara, Marche e appunto Arezzo e provincia. E questo è il primo aspetto. Quindi uno dice, attenzione, che c'è un dato politico, ragioniamo in maniera molto aperta, è tutto concentrato lì. Non hai 130.000 risparmiatori sparsi sul territorio italiano, li hai collocati in quattro specifici collegi elettorali o un po' di più. Che cosa è successo? Che questi 130.000 risparmiatori hanno un valore dei bond che viene azzerato dalle obbligazioni subordinate di 790 milioni di euro, di cui solo 350 milioni sarebbero in mano ai piccoli risparmiatori. Gli azionisti perdono 2 miliardi. Anche qui, sugli azionisti si è sempre detto, beh, insomma, lo sanno anche i Sassi, e se non lo sanno, fatti loro, che comprare un'azione è a rischio anche di perderci buona parte del capitale, se non tutto. Cioè, è un investimento rischioso. Prendi i dividendi, nel corso degli anni questi azionisti i dividendi li avranno presi da queste banche, e poi però stai a rischio. Altra cosa è l'obbligazionista, perché nella cultura del paese obiettivamente l'obbligazione bancaria veniva considerata uno strumento altamente affidabile, dovrebbe saltare la banca, e comunque è un'obbligazione, io ti presto dei soldi, non partecipo al capitale di rischio, ti presto dei soldi, tu me ne ridai, e le banche. Ora, sugli obbligazionisti il governo adesso ha fatto sapere che avrebbe 100 milioni, non più 350 milioni di euro, ma continua a esserci uno scontro molto forte tra Bruxelles e Roma. Qual è l'oggetto del contendere? Che la Banca d'Italia ha detto ieri in audizione, beh, se avessimo potuto usare il fondo il fondo interno, a questo punto il fondo depositi, non vi sarebbe stato nessun danno per gli obbligazionisti, gli azionisti. Bruxelles risponde: noi non abbiamo mai avuto obiezioni di principio sull'uso dei soldi provenienti dallo schema di garanzia italiano per i depositi. per salvare queste, per intervenire su queste quattro banche. Il punto è che interventi simili devono essere o senza aiuti di Stato o devono rispettare le regole sugli aiuti di Stato. E qui non si capisce che cosa non abbia funzionato. Cioè, siccome si fa notare che negli anni scorsi la Germania ha dato 238 miliardi alle sue banche, 238 miliardi, eravamo subito dopo lo scoppio della crisi. L'Austria, poi vedrò lo schema, ne ha dati anche lei 30 e via così. E l'Olanda pure, quindi anche paesi che danno sempre lezioni agli altri. È chiaro che c'è un diverso trattamento a questo punto. Questo è un po' colpa anche dell'Italia e dei governi precedenti. E quindi dove era il ministro Tremonti, dove era il ministro Monti, che era anche ministro dell'economia, quando queste cose capitavano, perché non abbiamo fatto sentire la nostra voce? Ma non si capisce che cosa non abbia funzionato con la Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia sostiene che le è stato impedito da Bruxelles di utilizzare il fondo depositi. E a questo punto la notizia è che la Commissione Europea ha chiesto formalmente all'Italia e altri 9 paesi di applicare integralmente la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari. E quindi a questo scopo Bruxelles ha adottato un parere motivato, che è una seconda tappa della procedura di infrazione prima del deferimento alla Corte di Giustizia Europea. In sostanza Bruxelles dice: è Roma che ha scelto la linea, noi abbiamo offerto 3 possibilità, bastava che non ci fosse aiuto di Stato o bastava rispettare le regole europee. Renzi, poi lo ascolteremo oggi, ha detto: noi facciamo tutto dentro le regole europee, e le regole delle banche le ha fatte l'Europa, purtroppo non le scriviamo noi, e dentro quelle regole l'Italia ha fatto di tutto per salvare i soldi delle famiglie, cerchiamo una soluzione per gli obbligazionisti, daremo ristoro, impossibile salvare tutti, non strumentalizziamo il pensionato morto, senza il disegno di legge di governo la situazione sarebbe molto peggiore. Sentiamo però cosa ha detto il commissario europeo ai servizi finanziari Jonathan Hill, dicendo: attenzione, è il governo italiano che si è messo alla guida del processo di salvataggio delle quattro banche, come dire, prendetevela con il governo italiano, non con noi. E poi queste quattro banche vendevano prodotti inadatti. A mio avviso qui un chiarimento anche a livello italiano di una commissione d'inchiesta, quello che volete, sul ruolo e quello che dice la Banca d'Italia dice un'altra cosa. Non possiamo avere la Banca d'Italia che dice una cosa e Bruxelles che ne dice un'altra. Uno dei due, non dico che stia mentendo, ma non la racconta giusta. Sentiamo il commissario europeo agli affari servizi finanziari Jonathan Hill. È chiaramente il governo italiano ad avere la guida e la responsabilità di questo processo. Il governo ha discusso le sue proposte con la Commissione, in particolare con la Direzione Generale Competitività, per quel che riguarda il pacchetto per le quattro banche. E sembra che tali misure siano compatibili con la legislazione europea sugli aiuti di Stato. Sono queste le basi su cui si sta procedendo. Ci sono chiare conseguenze per i cittadini che si sono trovati in una situazione molto difficile, in cui le banche stavano vendendo prodotti non idonei, senza che queste persone sapessero cosa stavano comprando. Adesso vi spiegherò anche più avanti perché sono fallite queste banche, l'abbiamo spiegato nelle scorse settimane, sono fallite perché hanno prestato soldi in maniera assolutamente incongrua e non al piccolo imprenditore con un progetto che magari non ce l'ha fatta, amici degli amici, insomma le sofferenze, come si chiamano in gergo, i prestiti che tu fai che non riesci più ad ottenere sono aumentate di dismisura, queste cose non venivano trasmesse nei bilanci, venivano fatti gli aumenti di capitale, venivano chiesti soldi in prestito. Immagino anche a molti correntisti attraverso le obbligazioni subordinate. A un certo momento il meccanismo non ha più retto, la Banca d'Italia ha messo le multe e quant'altro. Ripeto, però in questo caso il tema non è la Banca d'Italia ha vigilato a dovere o no, e anche la Consob. Certo che, come chiede Sole 24 Ore, siamo d'accordo, basta con la doppia vigilanza, la Consob, troviamo un'unica vigilanza. Il tema è: ha ragione la Banca d'Italia ieri, che ha detto ieri in audizione, Bruxelles ci ha impedito di fare di utilizzare il fondo depositi, che avrebbe messo avrebbe salvato, diciamo, anche gli obbligazionisti, gli azionisti, e Bruxelles che dice: no, ti avete chiesto un'opinione, erano 3 le possibilità, noi abbiamo specificato che non ci devono essere aiuti di Stato e che dovevano essere rispettate le regole europee. La mia impressione personale è che l'Italia sia stata un po' dilettantesca in questo senso, e cioè che abbia chiesto a Bruxelles un'opinione. Bruxelles ha detto no. Si è fatta un'altra scelta, si poteva insistere in maniera ancora più decisa, dire no cara Bruxelles, tu ci devi dire, noi usiamo il fondo depositi, hai obiezioni? Perché se hai obiezioni le devi motivare anche su quello che hanno fatto i paesi negli anni scorsi, cioè tirare fuori gli attributi. Perché non è che il governo può fare il duro quando è in Italia e essere sempre un po' supino quando è in Europa. Allora bisognava andare a insistere, mettere Bruxelles in un angolo e chiedere, noi useremo il fondo depositi, diteci se ci farete una procedura di infrazione, se lo farete noi chiederemo anche verifica dei soldi utilizzati da Germania, Olanda, Spagna, Austria e altri paesi, lasciamo stare la Grecia, per salvare le loro banche, perché non puoi punire noi se salviamo o evitiamo il danno di quattro piccole banche quando un paese come la Germania ha messo 238 miliardi. A mio avviso si è sottovalutata la vicenda, il governo è intervenuto con un decreto e anche il governo forse ha sottovalutato la reazione finale degli obbligazionisti a cui queste banche avevano venduto spesso in maniera non trasparente, ma poi uno deve anche leggersi la MIFID, questi prodotti. Adesso sta cercando un rimedio e la situazione si complica. Il Presidente del Consiglio ha detto noi cercheremo di fare tutti gli sforzi per chiarire le responsabilità del passato ed è a favore anche di una commissione d'inchiesta, però non strumentalizziamo quello che è successo, ossia il pensionato che si è suicidato. Non sono abituato a strumentalizzare la vita e soprattutto la morte di alcune persone. Naturalmente il nostro dolore, il nostro sentimento di condoglianze alla famiglia. Quello che però è fondamentale che esca con molta chiarezza da parte nostra, al lavoro per trovare le soluzioni laddove è possibile. Meno male che abbiamo fatto quel decreto, perché se non c'era quel decreto la situazione era decisamente peggiore. E lasciatemelo dire, credo che su questi temi c'è la piena disponibilità da parte del governo, vorrei dire quasi l'interesse da parte del governo, a che tutte le autorità preposte facciano tutti gli sforzi per capire e chiarire le responsabilità del passato. Io vedo di buon occhio il fatto che il Parlamento possa, nei limiti naturalmente nel rispetto del ruolo del Parlamento, aprire commissioni di indagine o sindacati di valutazione su ciò che è avvenuto nel sistema bancario italiano e europeo degli ultimi 10 anni. Ok, torneremo poi su questo tema ampiamente, sia con il Presidente Biennale, di cui parliamo anche di investimenti del piano Juncker tra poco, e poi con l'economista Luigi Zingaresi, in collegamento da Chicago. Ascolteremo anche altre dichiarazioni di Renzi, le dichiarazioni del sindacato dei bancari, e anche perché molti dei dipendenti di queste quattro banche avevano comprato essi stessi obbligazioni e azioni. Andiamo avanti, nel frattempo oggi non c'è tregua, su un'altra vicenda, la Popolare di Vicenza, ho questa mattina numerosi filiali della Popolare di Vicenza, che tra l'altro è l'istituto più importante nella provincia di Prato, e infatti le perquisizioni sono avvenute nelle filiali della provincia di Prato, sono state perquisite dagli uomini della Guardia di Finanza. La procura di Prato ipotizza il reato di estorsione da parte dei dirigenti della banca nei confronti di alcuni clienti e imprenditori. È un po' quello che denunciano molti vicentini e correntisti, cioè che nasce questa inchiesta delle denunce di alcuni industriali alla procura di Prato, che riguarderebbero la modalità di vendita di azioni bancarie negli ultimi anni, cioè il fatto che se tu volevi linee di credito, mutui o fidi, loro di fatto obbligavano a comprare azioni della banca a un prezzo fissato dalla banca stessa senza che fosse quotato, i famosi 72 euro che non rivedranno mai gli azionisti della Vicenza. Mai. Poi c'è un dato dell'INPS dove continua a regnare sovrana la confusione sui dati dell'occupazione. Comunque l'INPS nei primi 10 mesi segnala 415.000 contratti fissi in più rispetto al 2014. Fino ad ottobre 507.000 assunti contro i 92.000 del 2014. Ancora il ministro al pubblico impiego Marianna Madia, ministro della pubblica amministrazione, ha riconfermato in audizione al Senato che il Jobs Act non sarà applicato al pubblico impiego, a nostro avviso sbagliando totalmente, perché anche il pubblico impiego non è che puoi creare a questo punto chi lavora nel privato al Jobs Act e tutte le flessibilità, e nel pubblico impiego siccome entri per concorso, ma è una battaglia che tanto abbiamo fatto inutilmente. E sempre il ministro Madia ha detto leggete più attentamente la sentenza della Corte Costituzionale, non applicheremo il Jobs Act né transazioni semplicistiche, questo non significa non sanzionare chi fa male. Vabbè, tanto non lo fate, il pubblico impiego non sta licenziando nessuno, dirigenti licenziati perché hanno mal operato non se ne vedono. Quindi tutto il resto è retorica. Andiamo avanti invece con il sistema sanitario, perché se ne è oggi parlato, è arrivata una proposta concreta da parte sia di Confcommercio che di Confindustria, una proposta di riforma del sistema sanitario complessivo, orientando alla costruzione di un secondo pilastro che possa integrarsi con la sanità pubblica, e quindi anche una progressiva revisione delle agevolazioni fiscali per la spesa privata e una maggiore efficienza nella spesa pubblica. Sentiamo il progetto, lo illustra prima Carlo Sangalli, presidente Confcommercio, al microfono il nostro Giorgio Stamatopoulos. Oggi c'è l'esigenza di un ridisegno della sanità italiana a tutto tondo, e solo valorizzando il secondo pilastro, integrandolo con il primo e quello pubblico, renderemo meno costosa, più efficiente, più facilmente accessibile la sanità, e questo attraverso anche quell'assistenza sanitaria integrativa di derivazione contrattuale e non, che negli anni ha dimostrato di essere molto preziosa per molti lavoratori e famiglie. Per questo motivo Confcommercio e Confindustria hanno siglato una proposta su questo passaggio molto strategico della sanità, ancora una volta dimostrando che i corpi intermedi, quelli che sono vivi e che funzionano, non sono una zavorra per lo Stato, ma sono invece una grande opportunità. E sempre sul tema anche il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, al microfono sempre del nostro Giorgio Stamatopoulos, e quindi un ridisegnare un sistema sanitario appunto un po' sull'idea del sistema previdenziale, primo pilastro e secondo pilastro, una sanità praticamente complementare di secondo pilastro di tipo universalistico. Ci troviamo davanti ad un profondo cambiamento che deve affrontare il nostro sistema sanitario, nel senso che il sistema sanitario si deve confrontare con alcune importanti sfide, dall'invecchiamento della popolazione a vincoli di finanza pubblica e quindi ad una spesa sanitaria che non può che decrescere. Allora, in questo contesto molto complicato, pensiamo che i fondi integrativi, che sono frutto della contrattazione collettiva, quindi sono, diciamo, oggetto di bilateralità tra le parti sociali, possano dare un contributo importante per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale e garantire così l'accesso alle prestazioni sanitarie a tutti i cittadini in maniera efficace ed effettiva. Confindustria e Confcommercio hanno una serie di fondi sanitari che appunto nascono dai contratti collettivi. Noi vogliamo mettere a disposizione i nostri fondi, le nostre competenze per strutturare un sistema di integrazione della spesa sanitaria a cui parteciperemo a pieno titolo. Qualche numero? Consideri che i fondi sanitari nostri e del commercio coprono circa 7 milioni di cittadini oggi. Se ci fossero gli interventi che noi auspichiamo, interventi prevalentemente di tipo fiscale, che incentivino lavoratori e imprese a sottoscrivere questi fondi sanitari, questo numero potrebbe crescere, sarebbe una copertura importante per una parte rilevante della popolazione italiana. Allora, molti messaggi al 349-238-6666, sia come sms che come whatsapp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo in pausa. Gli sindacati non dicono niente, no, dicono, perché tra l'altro i sindacati dei bancari hanno molti dipendenti che hanno comprato obbligazioni e azioni di questo tipo. Sì, avete ragione, la Popolare di Vicenza, il valore delle azioni venduto fu non di 72 ma di 62,50 euro. Il punto è che il valore attuale è meno della metà, e andremo a vedere, non voglio dire nulla, cosa capiterà con la due diligence quando la Pop Vicenza si sposerà, e dipenderà anche con chi. Però ripeto, in questo momento anche il fatto che il padre della Boschi fosse vicepresidente, l'abbiamo detto mille volte, il tema non è questo, il tema è, abbiate pazienza, il governo sceglie di salvare le banche in un certo modo. Questo ha una penalizzazione fortissima per gli azionisti e anche per la prima volta per gli obbligazionisti subordinati. Prima volta no, perché ricordiamo le vicende Cirio, Parmalat, Banca 121, Giacomelli, quant'altro. Però di una banca a memoria, insomma, sto pensando, ma non me ne viene in mente un'altra che abbia avuto un obbligazionista subordinato di una banca che abbia avuto una penalizzazione così forte. Gli altri erano società imprenditoriali. Ora, Bruxelles dice: voi ci avete chiesto un parere e vi abbiamo detto che c'erano tre strumenti, bastavano essere che non fossero aiuti di Stato rispetto alle regole europee. La Banca d'Italia dice: no, Bruxelles ci ha impedito di usare il fondo sostanzialmente di non di solidarietà, ma il fondo che avrebbe permesso di non toccare gli obbligazionisti, il fondo di garanzia depositi, di non toccare gli obbligazionisti e gli azionisti. Chi ha ragione non lo capiamo, però a questo punto non può restare tra di noi la cosa con 100 milioni di euro dati non si capisce come a alcuni di questi risparmiatori. Vorremmo avere un po' di chiarezza. È il governo e Banca d'Italia che non si sono imposti a Bruxelles chiedendo maggior chiarezza e iniziando, oppure è Bruxelles che mente e gioca le tre carte? Dopo il meteo. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione di ingresso. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta. Vedo moltissimi messaggi su questo. Sì, Renzi dice: senza il decreto del governo sarebbe stato peggio. Molti contestano questa frase. No, sarebbe stato peggio perché si riferisce ai correntisti, che non sono stati toccati da questo decreto salva banche. Mentre, lo ricordo a tutti, dal primo gennaio, però bisogna, anche i correntisti sopra i 100.000 euro, nel caso di un fallimento di una banca, verranno coinvolti nel bail-in. La linea europea è che d'ora in avanti chi ha avuto ha avuto, chi ha dato colpa dell'Italia se non ha salvato le banche prima negli anni passati, colpa dei nostri ex governi e governanti e ministri sempre bravi a pontificare ma poi mai farsi sentire in Europa. Chi ha avuto, chi ha dato. E quindi la Germania, che ha salvato con 240 miliardi le sue banche comprese le garanzie, la Spagna che ci ha messo 52 miliardi, l'Olanda che ne ha messi 36, l'Austria che ne ha messi 28, poi la Grecia 40, hanno già fatto. D'ora in avanti, dal primo gennaio, se una banca va male, i cocci li pagano gli azionisti, gli obbligazionisti subordinati non solo, e i correntisti per la quota sopra i 100.000 euro. Perché il principio è che non li pagherà più il pubblico. Uno può dire: beh, cavolo, quando ci furono i tedeschi, gli olandesi e gli austriaci e gli spagnoli, però li hanno fatti pagare al pubblico. Ho capito, l'hanno fatto prima. Okay, se no arriviamo dopo. Detto questo, Renzi ha ragione nel dire che in questo modo non sono stati coinvolti i correntisti, perché dal primo gennaio sarà così. Altra cosa è la modalità. A noi è sembrato un eccesso, cioè un consiglio dei ministri a domenica, all'improvviso, straordinario, esce con un decreto. Forse il governo ha sottovalutato quello che sarebbe successo, anche da un punto di vista elettorale, e giustamente un governo politico va a fare delle valutazioni anche di carattere elettorale, ok? Qui è stato un po' messo lì, abbiamo salvato le banche e no, adesso ci sono queste 130.000 persone furibonde. Arriviamo sul tema. Intanto ringrazio, però, per parlare del famoso piano Juncker, che voi direte: dov'è finito il piano Juncker? Beh, è quel piano che prevede di far partire 315 miliardi di investimenti in Europa attraverso l'effetto volano dei soldi europei. Se ne parlerà domani e dopodomani nel corso del Rome Investment Forum 2015 organizzato dalla Federazione delle Banche, Assicurazioni e Finanza, dove, se ho ben capito, tra l'altro 50 miliardi di progetti sono già stati sbloccati, parliamo di progetti di tutta Europa, ma era un po' la risposta che si voleva avere a questa Europa troppo ragionieristica, troppo legata al deficit. Juncker disse, come Presidente dell'Unione Europea: faremo un piano di investimenti europei. Ne vorrei parlare con il presidente della Federazione Banca Assicurazione e Finanza, nonché presidente del gruppo BNL, Luigi Abete. Buonasera. Buonasera. Allora, noi siamo stati molto scettici, lo dico perché non è un mistero, con il piano Juncker, quando Juncker lo presentò, sembrava un modo per non parlare della necessità di maggiore flessibilità in Europa, si era in piena crisi greca, mi riferisco quindi a inizio anno. Al di là di questo, che cosa manca perché venga, come dicono quelli che hanno studiato, implementato? Ossia, perché parta e se ne senta qualche effetto? Ma guardi, innanzitutto il piano di fatto è già partito, nel senso che sono state completate le procedure diciamo autorizzative e la Banca di Investimento Europea ha cominciato a, tra virgolette, a finanziare progetti a valere su questa diciamo linea. È evidente che la partita qui si gioca su una pluralità di dimensioni, innanzitutto che la Banca di Investimenti Europea faccia effettivamente investimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella sua attività ordinaria, addizionali anche in ragione della tipologia degli investimenti, quindi che abbiano un livello di rischio o un livello più alto o un livello di rendimento più basso, perché altrimenti sarebbero investimenti come dire, finanziabili autonomamente dal mercato e quindi il vantaggio del piano Juncker sarebbe di fatto annullato. In secondo luogo c'è come dire, la attività delle cosiddette piattaforme nazionali. Oggi vari paesi hanno già stanziato tramite le loro banche di sviluppo delle risorse in questa direzione, al momento ne risultano stanziate tra Italia, Germania e altri paesi 35 miliardi, ovviamente da un lato bisogna fare in modo che questi 35 miliardi vengano allocati su progetti specifici, dall'altro bisogna fare in modo che i paesi che ancora hanno fatto questa attività di allocazione di risorse nazionali finalizzate al piano Juncker vengano come dire, completate. Poi c'è una terza linea, chiamiamola così, di azione, che riguarda gli investimenti privati, cioè quelli delle imprese, quelle delle multinazionali, quelle dei soggetti che possono essere essi stessi promotori diretti presso la BEI di progetti specifici, e lì ovviamente ancora probabilmente permane quella, come dire, prudenza che, a cui lei faceva riferimento nella sua introduzione, cioè in realtà ancora non si è messo in moto un processo di investimenti diffuso in Europa né tantomeno in Italia, sia da parte del pubblico sia da parte del privato, che dia, come dire, un significato a questa operazione. Il tema del dibattito che vediamo anche diciamo sulla dinamica della crescita, no? Lo 0,7 di fine anno che poi diventa 0,9 nelle previsioni di metà anno e che adesso si assesta 0,8 nella previsione conclusiva dell'Istat, e che guarda caso è lo stesso valore che aveva detto il Fondo Monetario Internazionale nella sua ultima previsione dell'autunno per l'Italia, 0,8 nel 2015 e 1,3 nel 2016. Al di là del dibattito, come dire, molto, sì, come dire, politico, tra chi dice siamo andati avanti di uno 0,1, siamo tornati indietro dello 0,1, è evidente comunque che rappresenta un, come dire, un segnale molto chiaro che mentre il processo di crescita della domanda interna in qualche misura si sta risvegliando, e questo lo vediamo anche nelle previsioni della Confcommercio, in tutto un mood delle vendite prenatalizie, il livello degli investimenti è oggettivamente molto più, tra virgolette, lento. Ecco. E quindi questo è una lettura, chiamiamola, congiuntuale della situazione, però è evidente che se il piano Juncker viene implementato in modo rapido, gli effetti sono sia strutturali che congiunturali. Se il piano Juncker viene implementato molto lentamente, è chiaro che gli effetti congiunturali non ce ne accorgeremo a breve. Su questo però, Presidente Betti, vorrei capire una cosa. Lei diceva giustamente questi soldi che l'Unione, intanto bisogna capire, perché su questo i dubbi non sono del tutto risolti, se sono soldi in più o soldi... Il problema non è se sono in più o non sono in più, se i progetti sono in più o no. Esatto. Se la Banca di Investimento Europeo finanzia progetti che hanno un livello di rendimento più basso, di rischio più alto rispetto a quelli che avrebbe finanziato una banca, la banca normalmente, sono addizionali. Se non lo fa, non sono addizionali. Ecco, su questo, dopo il traffico, vorrei capire, insomma, a chi si rivolgono, mi è chiaro, le piccole e medie imprese, l'ho anche dichiarato oggi, ma a che punto siamo riguardo? E poi chiaramente devo parlare anche delle banche con quello che sta succedendo. Vi do un'ultima notizia, però appena battuta dalle agenzie, il PM di Dove, non lo scrive l'ANSA, comunque anche perché è la... il secondo flash. Comunque, il PM sta indagando per istigazione al, al suicidio nel caso del pensionato e dopo aver acquisito già la lettera lasciata da D'Angelo in cui spiega le sue ragioni del gesto, quella che oggi era su tutti i giornali. Le sulla vicenda sono stati depositati esposti anche da parte di alcune associazioni di consumatori. Comunque, traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Allora, Presidente, avete, ho capito che questo fondo Juncker deve essere utilizzato per le piccole e medie imprese, perché là va il credito con rendimenti più bassi e magari anche in realtà rischio più alto. Quello che sta capitando alle quattro banche salvate dal governo, Presidente? Sono state salvate dalle altre banche. Se sono state salvate da voi con una garanzia della Cassa Depositi e Prestiti finale. No. I 2 miliardi e 350 milioni che sono stati messi, che vuol dire il quadruplo del contributo al fondo di risoluzione previsto per il 2015, diciamo, dalle normative europee, e quello è un costo, come dire, secco. Non c'è nessuna garanzia. La garanzia interviene sulla parte implementativa del finanziamento che va oltre i 2 miliardi e 350 e che ha consentito la liquidità necessaria per superare questa fase di passaggio. Quindi diciamo che nel migliore dei casi per le banche che hanno operato questo contributo, l'onere per il 2015 è di 2 miliardi e 350 milioni. Nel peggiore dei casi si aggiungerà un ulteriore onere nel 2016. Sì. Questo è previsto a normativa vigente, ma questo non per darsi meriti, perché i meriti purtroppo in queste condizioni sono difficilmente allocabili, mettiamola così, non so se sarebbe l'idea. Quanto per dire che comunque il settore bancario ha dato un contributo importante proprio per evitare che il processo di applicazione della normativa del bail-in diventasse talmente significativo da creare una quantità indistinta di soggetti colpiti. Vediamo purtroppo quello cosa comporta anche il limitare l'applicazione del processo soltanto alle obbligazioni subordinate, che per definizione dovrebbero essere più a rischio, ma che purtroppo nella cultura del paese sono diventate obbligazioni a maggior reddito ma non a rischio, non so se vediamo gli effetti che ha prodotto in termini di risposte, vediamo gli effetti tragici. Però io volevo sapere un'altra cosa, Presidente, mi scusi, io volevo capire, lei è dell'idea, noi abbiamo messo in evidenza ieri su Sole 24 Ore in questo programma, che il cosiddetto fondo umanitario rischia di essere un rimedio peggiore del male, cioè di dare l'idea che intanto di far pagare i contribuenti e poi dare l'idea che anche se ti compri un'obbligazione subordinata alla fine poi ci pensa lo Stato, e di sconfessare in realtà quello che è l'operato di Banca d'Italia e della Consob, perché se c'è un risarcimento dello Stato vuol dire che due organismi dello Stato non hanno ben vigilato. Lei è di questa idea o ritiene che comunque il governo debba pensare, visto che molti lamentano che questi prodotti sono stati venduti senza spiegare il rischio, quindi disattendendo la MiFID? Questo dipende dall'epoca, perché con la MiFID questo non è più possibile. È possibile però che alcuni di questi prodotti siano stati venduti prima dell'applicazione della MiFID e quindi come tale non si può fare, come dire, non si può dare un giudizio, come dire, prilussiano. È chiaro il ragionamento, quindi come tale andrebbe visto prodotto per prodotto. Con la MiFID questo non è più possibile. Prima della MiFID non deve accadere, però se lei mi dice che devo mettere la mano sul fuoco per tutti, tutte le situazioni, ovviamente starei molto attento. È chiaro il ragionamento, però il tema non è questo, i temi sono due: uno, la consapevolezza che comunque se si fosse potuto intervenire con il fondo esistente di tutela dei depositi, cosa che era stata prevista e che è stata impedita dalla Unione Europea, certamente l'investimento per le banche sarebbe stato minore e non ci sarebbe stato alcun onere per gli obbligazionisti. Questo è poco ma sicuro, purtroppo il balletto è durato troppo a lungo e nessuno, come dire, è passato a vedere le carte dell'altro. È chiaro il ragionamento, perché bisognava purtroppo obbligare l'Unione Europea a prendere una posizione formale e non soltanto informale. Ma questo ormai fa parte della storia e quindi lasciamola lì. Secondo, in questo caso secondo me un intervento pubblico è doveroso, ma non soltanto per il motivo di, tra virgolette, di umanitario, che, come dire, viene ricordato per alcuni casi, ma perché il passaggio da una cultura per cui non c'era rischio, una cultura in cui il rischio, come è giusto che ci sia, esiste, è così improvviso che per questi risparmiatori si è creato in questo caso di fatto una situazione simile a quella degli esodati, se vogliamo usare. Sì, ho capito cosa ce l'hai. Hanno fatto, tra virgolette, da cavi in un passaggio culturale e se ho capito sul ragionamento, si potrebbe fare un'eccezione su questo. Chiaro anche quanto le ricorda sul balletto Bruxelles Banca d'Italia, insomma non ne sta uscendo bene nessuno dei due, a mio avviso, nel senso che Bruxelles poi risponde: vi abbiamo formulato quattro ipotesi, fatto sta che ormai i buoi sono scappati, che la Germania e altri paesi, Olanda e Austria, a suo tempo ebbero la possibilità di aiutare con decine di miliardi, 238 nel caso tedesco, 30 in quello olandese e austriaco, le loro banche. Grazie al presidente della FEBAF, quindi domani e sabato i due giorni dedicati a come rendere concreto questo piano Juncker, fondamentale perché sono d'accordo con Abete, stanno ripartendo i consumi, l'export si è un po' fermato per via di Cina e Brasile, ma soprattutto mancano l'appello gli investimenti. Grazie quindi al presidente della FEBAF e di BNL Luigi Abete. Comunque con il piano fiscale, non col piano del fondo, il piano fiscale è quello, anche da un punto di vista tecnico, come dire, lo strumento migliore, voglio dire, anche a mio avviso, che non corre rischi di legittimità in sede europea. Perfetto, grazie ancora. Arrivederci. Allora, andiamo sul GR24. C'è un ascoltatore che continua a scrivermi, ha comprato azioni. Le subordinate Lower Tier 2 devono da prospetto essere toccate solo in caso di fallimento della banca. Qui sono state annullate senza fallimento. Non sono nessuna nuova, nessuna vecchia banca. Sì, tecnicamente è vero che queste banche non sono fallite, sono state salvate, ma azzerando l'investimento degli obbligazionisti subordinati e degli azionisti. Dopo il GR24 continuiamo sul tema. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. State ascoltando un programma offerto da Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso parliamo sempre della vicenda delle quattro banche e, ripeto, per chi si fosse perso la prima ora, dell'evoluzione di questa vicenda che ormai è di, non dico scontro, ma insomma dichiarazioni contrapposte tra Bruxelles e Roma e quindi anche la Banca d'Italia. Rapidamente la borsa di oggi, ancora il petrolio a fare da padrone, abbiamo parlato ieri a lungo, resta intorno ai $37 il barile. Il dato intanto meno 0,40 Milano, meno, invariata Parigi, invariata Francoforte, Londra meno 0,60, il Dow Jones più 0,40%, euro a quota 1,09, bene Mediaset in recupero un po' parziale su ieri più 1,70, Unipol più 1,60, Saipem più 1,5, Prismian più 1,20, Atlantia più 1,1 come Tenaris, Buzzi Unicem guadagna lo 0,80%, Moncler invece perde il 3,1%, Telecom l'1,90%, sempre in vista dell'assemblea dei soci, prevista un'affluenza record tra l'altro. Banco Popolare meno 1,60%, oggi deboli quasi tutti i bancari, anche la Pop Milano meno 1,30%, poi gli energetici tranne Terna, perché Enel Green Power perde 1,30%, Enel pure, E ancora di Terna invece vale la pena ricordare il dato di oggi perché è particolarmente significativo. Terna è arrivata a guadagnare a un certo momento anche il 7% dopo l'acquisto della società elettrica Ferrovie. Tra i titoli fuori listino il peggiore è Stopininfarina, meno 9,40%, e Rizzoli Corriere della Sera che ha perso il 5% in attesa della presentazione del piano industriale. Tra i titoli migliori Gas Plus più 6,40% e poi TAS più 4,70%, Fedon più 4,60%. Negativa oggi, anche se poi sostanzialmente ha ritracciato un attimo, Terna pure, ma dicevo negativa anche Fiat. Qui c'è una vicenda, Exor ha perso lo 0,70%, Fiat molto altalenante oggi in borsa, perché poi meno 0,16%, perché c'è la vicenda della multa da $70 milioni, è stato raggiunto un accordo con le autorità americane. La Fiat Chrysler Automobiles pagherà $70 milioni di multa per chiudere un'inchiesta dell'autorità americana sulla sicurezza stradale. Allora, il tema delle banche lo riprendiamo. Allora, ripeto, la notizia di poco fa è che la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo sul suicidio di Luigino D'Angelo e il PM Alessandro D'Amore procede contro ignoti per istigazione al suicidio. Continua a essere fortissimo lo scontro tra confronto tra Roma e Bruxelles. Ieri la Banca d'Italia aveva spiegato che il progetto di utilizzare il fondo interbancario di tutela dei depositi, che avrebbe evitato il sacrificio dei risparmiatori, fu bloccato dalla Commissione europea. Bruxelles ha replicato: la Commissione non ha avuto obiezioni di principio sull'uso di questo fondo, ma aveva spiegato che interventi simili devono essere o senza aiuti di Stato o devono rispettare le regole europee e si sarebbero evitati i danni per 130.000 risparmiatori. Sentiamo su questo di nuovo il commissario europeo ai servizi finanziari Jonathan Hill, che ha ribadito: è il governo italiano a essere alla guida del processo di salvataggio e ha la responsabilità per questo, non date responsabilità all'Europa. Poi ha aggiunto: queste quattro banche vendevano prodotti inadatti. È chiaramente il governo italiano ad avere la guida e la responsabilità di questo processo. Il governo ha discusso le sue proposte con la Commissione, in particolare con la Direzione Generale Competitività, per quel che riguarda il pacchetto per le quattro banche. E sembra che tali misure siano compatibili con la legislazione europea sugli aiuti di Stato. Sono queste le basi su cui si sta procedendo. Ci sono chiare conseguenze per i cittadini che si sono trovati in una situazione molto difficile, in cui le banche stavano vendendo prodotti non idonei senza che queste persone sapessero cosa stavano comprando. E poi dicevamo di Renzi, abbiamo già fatto ascoltare il passaggio in cui ha detto: insomma, non strumentalizziamo il suicidio del pensionato, sono favorevole a una commissione di inchiesta e di indagine su quello che è avvenuto nel sistema bancario italiano e europeo negli ultimi anni, anche europeo. Perché? Perché il tema del governo è: Bruxelles dice che non devono essere aiuti di Stato e che non era contraria, bastava rispettare le regole europee. Noi le abbiamo sempre rispettate, facciamo notare che la Germania ha finanziato le sue banche con €247 miliardi. Le regole delle banche adesso le decide l'Europa. Fino a 10 anni fa non era così. E molti paesi hanno messo un sacco di denari pubblici per salvare le banche. Do un numero. La Germania ha salvato le proprie banche con €247 miliardi. L'Italia non ha messo denaro pubblico. È stata una scelta dei precedenti governi. Fatto sta che oggi le regole sono cambiate a livello europeo. Noi, anche se volessimo, non potremmo più fare come è stato fatto in passato da altri paesi. Il nostro sistema è comunque più solido. Io, per esempio, non ho alcuna difficoltà nel dirle che il sistema bancario italiano, a mio avviso, e non soltanto a mio, è più solido di quello tedesco, ad esempio, nonostante tutti questi denari che sono stati messi. E allora continuiamo chiaramente a parlare del tema. Avete sentito le dichiarazioni sia del commissario europeo che del presidente del Consiglio. C'è stato e continua a esserci un po' un botta e risposta tra Roma e Bruxelles, ma al di là dei tecnicismi, nel ringraziare per averci raggiunto in collegamento, l'economista Luigi Zingales, che insegna alla University of Chicago Booth School of Business, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. La domanda è molto semplice. Allora, noi abbiamo sostenuto, come Sole 24 Ore e come Radio 24, una linea che può essere così riassunta. Sicuramente ci sono stati degli errori, dei comportamenti scorretti, non solo nella gestione di queste banche, che poi sono dovute essere salvate, ma anche nel modo in cui queste quattro banche hanno piazzato i prodotti rischiosi, le obbligazioni subordinate ai loro correntisti. Però attenzione, che è peggio il tacon del buso, è peggio il rimedio del male. Se tu inizi con un fondo umanitario, che già il nome, a cercare di ridare i soldi parzialmente, non si capisce con quale criterio, a questi risparmiatori, è vero che hanno delle volte utilizzato anche hanno spinto per vendere questi prodotti, ma tu hai l'obbligo di leggere la MiFID, e hai, così come quando compri un farmaco, hai l'obbligo, se vuoi, o meglio, puoi leggere il cosiddetto bugiardino. Se veramente non ti sono stati illustrati questi profili di rischio, esiste sempre il ricorso alla magistratura. Intanto vorrei sapere cosa pensa di questo, e poi veniamo alla scelta fatta dal governo e al rapporto Roma-Bruxelles. Beh, io innanzitutto farò una grossa distinzione tra azionisti e obbligazionisti, nel senso che gli azionisti devono sapere che cosa comprano, perché sono azioni, e le azioni, se una società fallisce, perdono tutto il valore, e quindi secondo me il problema non si pone. Per gli obbligazionisti il problema vero sono due: uno giuridico, di cui non sono un esperto, quindi demando a chi sa di più se ci sono le condizioni giuridiche per far pagare questi fondi, nel senso che questi potevano essere utilizzati in caso di insolvenza. Non so se tecnicamente c'è l'insolvenza, però sostanzialmente economicamente c'è l'insolvenza, quindi dal punto di vista economico secondo me ci sta che siano stati fatti pagare. Dal punto di vista giuridico lascio a chi ne sa di più. Dal punto di vista invece del vendere di questi prodotti, il rischio, secondo me è una quasi certezza, che questi prodotti siano stati venduti a degli investitori inconsapevoli, vendendoli come prodotti privi di rischio, secondo me è un rischio molto elevato. Secondo me ci sono gli estremi, c'è un'indagine su come questi prodotti sono stati venduti e chi non ha vigilato, a cominciare dalle banche a finire alla Consob e alla Banca d'Italia. Allora il governo, come lei ha sentito, dice di essere favorevole, l'ha detto lo stesso Renzi, a una commissione di inchiesta. Però io vorrei, prima di arrivare alla commissione di inchiesta, vorrei capire, ma lei in questo momento è a favore di questo cosiddetto fondo umanitario ipotizzato, ventilato anche dal ministro Padoan, cioè che vada a ripianare in parte le perdite, o sarebbe un precedente più grave ancora del danno? Perché poi intanto dal 1 gennaio scatta il bail-in per tutte le banche dell'area euro, e quindi in automatico pagheranno anche in questo caso i correntisti sopra i 100.000 euro, oltre che gli obbligazionisti subordinati, gli azionisti. Ma l'obiezione è, attenzione, se tu dai il messaggio che stabilisci che chi ha comprato quell'obbligazione in qualche modo è innocente, va ripagato, tanto non si capisce perché non hai fatto con Parmalat, con Cirio, con Giacomelli, con Banca 121, con l'Argentina. E poi stabilisci il principio, obiettivamente, che esiste un altro canale oltre al classico canale della causa giuridica, cioè di andare con gli avvocati e portare in causa la banca. In qualche modo il governo sembrerebbe quasi ammettere che forse Banca d'Italia e Consob non hanno vigilato. Non è peggio questo? Non è peggio il rimedio del danno? Io sono contrario al fondo umanitario per sé. Io farei un fondo invece legale, in cui aiuterei queste persone a fare causa, perché la realtà è vero che queste persone fanno causa, però in Italia l'azione, la class action americana non è molto difficile da fare. Sì, esattamente. Quindi io, se fossi al governo, farei una class action in nome degli azionisti e restituirei a loro i soldi nella misura in cui riescono a recuperare da chi è responsabile, a cominciare da Banca d'Italia e Consob. La Banca d'Italia ha adeguati fondi per pagare se ha fatto dei danni, se ha fatto. Allora, restiamo poi su questo tema e anche sul tema del rapporto Banca d'Italia e Unione Europea, Governo Unione Europea. Visto che ce lo chiedete, alcuni si sono messi in collegamento adesso, ricorderò dopo lo spazio, dopo il traffico, anche diciamo, che cosa è successo esattamente. Andiamo sul traffico però. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Banca Marche, cari Ferrara, cari Chieti, Banca Popolare dell'Etruria hanno avuto in portafoglio sofferenze lorde per 8 miliardi e mezzo di euro, quindi non ci stavano più dentro con i soldi che hanno prestato. Vengono svalutate 1,5 miliardi queste sofferenze e spostate in una bad bank. Di fatto entrano quindi in bilancio perdite per 7 miliardi di euro. Per salvare queste banche viene creato un fondo da 3 miliardi e 600 milioni. È un fondo in cui mettono i soldi Intesa San Paolo, Unicredit e UBI, hanno erogato 4 miliardi di euro. Poi c'è la Cassa Depositi e Prestiti che garantisce una linea di credito da 1,7 miliardi, cioè se non riusciranno a incassare questi soldi li metterà eventualmente la Cassa Depositi e Prestiti. 1 miliardo va a Banca Marche, 400 milioni, 1 miliardo serve a ricapitalizzare Banca Marche, 400 milioni per Banca Etruria, 190 per Cari Ferrara e 140 per ricapitalizzare Cari Chieti, 1,7 miliardi per coprire le perdite originarie. Professor Zingales, adesso continuiamo a parlare del tema. Abbiamo sentito Renzi e quant'altro, però perché non far pagare subito gli sindaci, gli amministratori, i dirigenti? Banca d'Italia si difende sostenendo di avere già dato il massimo della pena, perché molti ascoltatori dicono sì, ma questi non pagano mai. Certo, però secondo me sicuramente il problema è che non sono capienti per pagare una cifra sufficiente per queste persone. Cioè, ci sono due problemi secondo me. Il primo è c'è stato un intervento di Banca d'Italia sufficientemente rapido di fronte al deteriorarsi della situazione. Il secondo è invece sono stati venduti dei prodotti a dei clienti che non avevano le caratteristiche per avere questi prodotti. Cioè, andiamo a vedere i documenti delle varie banche. Erano la categoria MiFID che giustificava investire queste azioni, queste obbligazioni o no? Perché se è stata fatta una frode, la gente deve pagare per questa frode, primo. Secondo, la mia impressione, però è un'impressione, è che in Banca d'Italia si sia chiuso un occhio verso queste forme di finanziamento pur di salvare il sistema bancario. E c'è una lunga tradizione che di vendere allo sportello i prodotti della banca stessa, anche a delle persone che non dovrebbero investire in quelle situazioni. E in questo secondo me, si rompe un rapporto fiduciario tra il dipendente bancario e l'investitore. Se poi la gente non si fida nelle banche, i soldi sotto il materasso, la colpa è anche del fatto che quando questa fiducia viene violata nessuno paga. Sì, allora facciamo pagare, e sono d'accordo con lei, va anche detto e spiegato, noi cerchiamo di fare il possibile, che se c'è una legge, una direttiva europea, mi riferisco in questo caso al bail-in, che stabilirà dal 1 gennaio che comunque anche i correntisti sopra 100.000 euro, anche gli obbligazionisti subordinati, oltre che gli azionisti, pagheranno nel caso di un fallimento, uno è obbligato, secondo me, o ha un dovere, non è obbligato, avrebbe un dovere di andare a verificare notizie sulla sua banca, leggersi bene la MiFID, capire com'è la banca, cambiare banca. Guarda che il tasso di persone che in Italia cambiano banca è irrisorio, perché siamo tutti quanti tradizionalisti. Allora io dico, vai a vedere, vuoi una banca piccola, sana, vai a vedere, cioè, qualcosa dovrai pure leggere, il rapporto di una volta, metti i soldi in banca, tanto, a meno che tu non metta solo conto corrente sotto i 100.000 euro, in quel caso sei stratutelato e puoi anche fregartene se la banca è a rischio fallimento. Cioè, non diventa un po' troppo autoassolutorio per i risparmiatori, fermo restando che questi manager vanno condannati, perseguiti, vanno chiamati anche in dolo e quindi vanno fatti pagare per queste cose, perché non è possibile, a parte organizzare i tour sotto casa del direttore generale, ex direttore generale di Banca Marche, insomma, le persone vanno esposte, a mio avviso, al pubblico ludibrio per quello che hanno creato, ma non bisognerebbe, non si rischia anche di far passare i risparmiatori solo come vittime, Zingales? Certamente c'è questo rischio e questo rischio va evitato. Io farei una grossa distinzione tra il bail-in, che parte al 1 gennaio, e secondo me in questo abbiamo tutti una responsabilità, anche come Sole 24 Ore, eccetera, di spiegarlo alla gente, però perché effettivamente poi dopo la gente sarà responsabile. Però io non ho visto ancora le banche spiegare ai depositanti che questa sarà la situazione, però secondo me il tempo non è molto. La cosa diversa è che questo provvedimento è stato fatto in un mondo in cui non c'è un'aspettativa, sì, di questo tipo, e secondo me non c'è stata una spiegazione, cioè sull'equivoco molte banche e funzionari di banca hanno giocato dicendo ma sì, non c'è rischio e cose di questo genere, e se questo è successo la colpa non è del risparmiatore, è la colpa di chi gli ha venduto il prodotto. Cioè lei giustamente ha detto come in farmacia, però se in farmacia il farmacista mi dà una medicina diversa da quella che c'è scritta sul bollettino e io muoio, è colpa mia che non ho fatto l'analisi chimica quello che mi ha dato? Il problema è vero, sa qual è, Zingales? Che il farmacista può anche provare a piazzare un farmaco spesso inutile, perché il farmaco ti faccio morire, ma spesso inutile o delle volte controproducente, che ti fa solo spendere e perdere soldi invece che avere un beneficio. Tu però hai, di solito, quando assumi un farmaco, leggi il bugiardino, vai a vedere le controindicazioni, di solito hai anche un medico. La sensazione è che invece, proprio per il rapporto fiduciario di piccole banche sul territorio, la faccia di ste cavolo di popolari con cui ci hanno rotto le scatole per 15 anni, come se le popolari fossero sempre meglio, si è visto infatti, il rapporto fiduciario probabilmente era tale che tu ti sei fidato e basta, non so come spiegarmi, non sei neanche andato a dire beh, aspetta che chiedo a qualcuno di capire, ma queste obbligazioni rischio o non rischio? Però ho un'ultima, il che non vuol dire dar la colpa al risparmiatore, ma non vuol dire neanche assolverlo in toto, perché in alcuni casi i rendimenti erano alti, 3% contro l'1% di altre banche. Insomma, cerchiamo di non essere troppo populisti, già ci pensa delle volte il governo a sufficienza. Zingales, volevo chiedere un'ultima cosa invece, lo scontro tra la Banca d'Italia e Bruxelles. Lo riassumo così, la Banca d'Italia ieri ha detto guardate che noi avremmo voluto utilizzare il fondo interbancario di tutela dei depositi che si pagano le banche, ma ci ha bloccato la Commissione Europea. Bruxelles ha replicato noi non avremmo avuto obiezioni, ma interventi simili devono essere o senza aiuti di Stato o devono rispettare le regole dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. Renzi oggi ha detto con l'Unione Europea noi facciamo tutto dentro le regole europee. E obiettivamente fa un po' impressione vedere che l'Unione Europea, secondo Banca d'Italia, ci ha bloccato il fondo interbancario, ma nel frattempo Germania 238 miliardi di aiuti di Stato concessi alle banche da quando è scoppiata la crisi, Spagna 52 miliardi, Irlanda 42, Grecia 40, Olanda 36, Austria 28, Italia 1 miliardo. E allora? Innanzitutto io trovo sconvolgente che l'Unione Europea sconfessi quello che dice la Banca d'Italia. Cioè io l'indagine parlamentare è necessaria, perché io voglio pensare che la Banca d'Italia dica una cosa non vera. Se così fosse sarebbe catastrofico per le istituzioni italiane. Io spero che sia l'Unione Europea che dice una cosa in contraddizione da cosa cioè sbagliata, però un'indagine parlamentare è assolutamente necessaria. Di necessaria l'indagine parlamentare. Devo chiudere, Zingales, se mi scusi, sto sforando. Grazie anche Luigi Zingales, Sebastiano Barisone, l'augurio buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.